tutti. Ma voi lo conoscete questo fatto? Quelli che hanno ucciso la Gina Bianchi erano della SS tedesca, tra i quali due sono stati fucilati davanti al numero 7 di Via Ornato, proprio qui dietro l'angolo. Ma voi di questo fatto lo conoscete? Dai, che c'era Giovanni Brambilla che sparava sui tetti là dell'accademate, lui gli piaceva sparare in tutta la... E lì sono stati presi dai partigiani sui tetti, trascinati al cimitero di Niguarda, lasciati lì e poi... E poi, dai, facciamo l'ultimo così non ci pensiamo più. Sempre sta faccia, l'ultimo, dai. Dai, su, vai. Uno, e due, e splash! Oh, nel Sebes. Nel Sebes, oppure a San Vittore, non in carcere. San Vittorio Olona, nel fiume Olona, splash. Forse le due SS che vengono fucilate non sono le stesse due che hanno ammazzato la Gina Bianchi, forse solo una. Solo una viene ammazzata con un fucile da caccia, ma... Ma fai stress. Fai stress. Poi... Sei... Ce l'hanno bendata la paga che se ne aiutavano, Ce l'hanno bendata perché non capisse bene il dialetto milanese. Ce l'hanno bendata la paga che si meritava, no? Io facevo la staffetta e nell'agosto del 44 ero anche in una casa pericolosa, perché in quella casa lì c'era uno spia, un fascista, sei partigiani. Sono stati fucilati per colpa sua e i danari spariti. Poi quello lì, la spia, il fascista, i partigiani l'hanno preso. L'hanno fatto vestire da quando si è sposato, gli hanno messo sul suo bel completino, girato le scarpettine, il suo cravattino. Tino e... fucilato! Oh, guarda! Come mi è dispiaciuto tutto quella volta! Aniguarda? Sì, Aniguarda, tanti anni fa, nel dopoguerra, che erano i compagni che vivevano in clandestinità in Cecoslovacchia. Potevano anche tornare in Italia. Avevano fatto un'azione partigiana che le brucia ancora adesso a certa gente, va bene? Eccomi. Mi compagni che hanno fatto la resistenza, erano costretti a vivere in Italia sotto falso nome. Ecco, questa è la bella democrazia che abbiamo conquistato, va bene? Noi le armi non le abbiamo consegnate, mica mi metti anche nel fuori il Seveso, mi strizza addirittura in testa i cavalli, perché se facessero un lavoro di pulizia del Seveso tirassero via tutti i detriti. E piene di armi. Sì. Infatti qualche volta quando si è prosciugato il Seveso lì sulla melma, la melma del fondo, hanno trovato qualche pistola o qualche mitra o qualche pezzo di pistola o qualche pezzo di mitra, perché? Perché si vede che loro che prima di gettarle le armi che le smontavano... Le armi consegni no, i consegni no, i tegni. E infatti li ho tenuti per un po' di anni, eh. E dopo un bel momento... Vabbè. E allora va avanti con la storia, dopo un bel momento si è ferma. Tu hai presente dove c'è il macellaio lì in via Ornato al 33? Qual è il macellaio? Ma sì, dai, qualità, convenienza, cortesia. Ma quello che vende di quei maialini da là? Ma quello che carne tenera. Ecco lì, proprio dove viene fuori Seve, non c'è mica una casetta. La casetta, sì, ma su, finito. Allora va avanti, ho capito. Era lì che tenevano le nostre armi. Guarda, ma che segreto che mi ha raccontato, ha fatto la scoperta dell'America, va, figurati, quelle della volante rossa le armi le metteva nell'accademate, poi quelle delle brigate del popolo, ti ricordi dove le mettevano? Dove? In viale Adriatico, nell'accademia Tugnit, la casa dei tedeschi, presso le suore domenicane. Ma fatta la scoperta lei dell'acqua calda, guarda che tutta Niguarda lo sapeva che era lì, ma nessuno andava lì a toccarle, ecco. Nascondere le armi, questo era un lavoro che facevano le donne, le era un bel lauret che potevano fare i doni di Niguarda, però, ma non hanno fatto di lavoro le donne di Niguarda, io facevo parte della 110ª Garibaldi, lo conosci te Cusmini? Cusmini, certo che lo conosco il Cusmini, quello che all'epoca di Scelba, nel dopoguerra, gli hanno trovato le armi in casa, tac, te l'hanno preso, si è fatto dentro 4-5 anni in galera, uè, mica scherzo. Ah, mi ricordi, ecco, quel Cusmini lì. Quel Cusmini lì era quello che aveva la bandiera della 110ª, un bandierone. Solo io e Cusmini l'abbiamo portata alle manifestazioni. E perché? Perché era una bandiera fatta dalle donne di Niguarda, ma cucita così alla buona su un pezzo di legno lunghissimo che però era pesante come una bestia. Guarda, non so neanche come ho fatto. Ecco. Mi piaceria salire. Le piaceria proprio sapere dove è andata a finire la bandiera della 110ª. Ah. Chissà dove è andata a finire, eh? Scomparsa. Sparita. Volatilizzata. Vabbè. Lo buttiamo insieme? Sì. Ecco. Sera. Sera. Grazie. Questo per lei. Buonasera. Come sta? Come sto? Sente voce sempre un po' giù, però insomma. Pazienza, va là. Che c'è? La teniamo. Buonasera. Sera. Allora, vediamo se c'ho la penna. Dovrebbe. Ecco. Ah. Torino. Continuiamo? Sì, sì, sì, sì. Allora, prendiamo un'altra volta. Allora, non mi ricordo dove eravamo. Eravamo nella Regina Bianchi, abitava in Via de Castiglia all'isola. In Via de Castiglia? Sì. No, strano, perché c'è una targa dedicata a lei in via Bartolini, 49, zona Certosa, tutta l'altra parte. Ma è sicuro? Certo, c'è anche una targa sulla quale c'è scritto a Gina Bianchi Galeotti che da questa casa diresse il gruppo difesa della donna, morì sotto il fuoco nemico. C'è anche una foto. Vabbè, allora ma se c'è anche la foto non posso dire niente, se c'è la foto è... Però probabile. È probabile che abbia vissuto lì prima in un periodo precedente col marito, è possibilissimo adesso che mi ci fassi a pensare. Guardi, sì, sì, sì, sì, però... Comunque, mi faccia dire che la casa di Via de Castiglia l'era una casa d'un pulito, un lindoro, un profumo, ma che non era mica solo una casa pulita, l'era una casa amata. E sul tinello lì una foto del marito che... Furono due anni di enorme valore. La parola d'ordine era emanciparsi il più possibile nella lotta contro i tedeschi e i fascisti, perché l'emancipazione non era mica un elemento comune, eh. Le democristiane e le cattoliche non erano mica sullo stesso piano, ma ci fu subito una diffusione. Immediatamente. Perché vede, questa rete esisteva già, più nelle donne che negli uomini. Infatti è stato più facile organizzare i gruppi di difesa delle donne che i gruppi dei combattenti. 50.000 aderenti, pensi, 50.000 aderenti ai gruppi di difesa delle donne solo a Milano. Cioè tutte le donne dovevano essere difese e imparare a difendersi intanto da noi stesse, imparare a difendersi la nostra dignità, i nostri diritti, i nostri figli, la nostra famiglia. Era una catena di solidarietà, spontanea, perché c'era questa voglia di dire la nostra, di fare qualcosa e di mettersi sullo stesso piano degli uomini per concorrere alla liberazione, che rispondeva a un sentimento primordiale di solidarietà, che è un sentimento specificatamente femminile, perché vede, la solidarietà è qualcosa di comune a chi è più umiliato, più offeso, più sacrificato, quindi è un sentimento innato nelle donne, ecco. Ecco, queste sono cose che contano. Aspetta, l'ho messo sul caffè prima, ne prendo una tazzina. Come? Hai quanti zuccheri? Uno. Va. Ma un po' di latte anche, sì, se c'è. Scusi, ma Galeotti è il nome del marito? No, il marito era Bianchi. Ah, il prete Bianchi? No, cioè... C'era un altro Bianchi, Don Aniceto Bianchi, ma non era la stessa. Che non era sposato sto prete qui? Un prete, signore. E guardi che anche il papà della Silvana. Il papà della Silvana, prima di essere stato sposato e essere stato comunista, era stato un prete anche lui, è comunque un'altra storia questa qua. Don Aniceto Bianchi comunque teneva nascosti per i partigiani, stampava fogli clandestini. Sì, sì, lo so, ma c'era anche un altro prete che lavorava, sì, per il prevosto, partigiani. Anche il prevosto lavorava. Come che si chiamava il prevosto? Il prevosto era il Don Macchi. Lei si ricorda sempre tutto. Grazie. Comunque, scusi, ritornando alla Gina Bianchi, ma che nome di battaglia aveva? Lia. Nome di battaglia Lia. Ah, ecco, Lia, già, infatti io l'ho saputo dopo, sta dal marito che prima era in carcere. Io la ricordo solo come una donna un po' speciale, in questo senso sempre sensibile. Lei aiutava col suo Soccorso Rosso e soprattutto queste famiglie di prigionieri arrestati, no? Magari io neanche le conoscevo queste persone, ma lei veniva da me. Da me mi diceva, guardi, è stato arrestato il tale, è stato fatto il tal'altro, ed era così forte l'affetto che mi legava a lei che non so, era molto serena. Stranamente, perché aveva il marito in carcere di cui si capiva che era molto legata, non c'era riunione nella quale non parlasse del marito. Anche le compagne parlava sempre del marito, aveva sempre notizie, forse proprio attraverso il carcere, sa, c'erano i legami anche col carcere allora. Lei lo sapeva che oltre che essere carcerata era stata anche torturata? Torturata? La Bianchi? Ma non lo sapeva. Come? Adesso glielo faccio vedere io. Allora, devo segnare. Ricordo due pugni sferrati, mi davano in argumeno, uno mi fece cadere due denti, l'altro pugno lo stomaco mi fece andare a terra svenuto, quando rinvenni ricominciarono a pestare per 45 ore senza mangiare. senza bere, senza riposare, sempre la bocca, il naso, escoriazioni varie, questo lui... Ma che libro è? Scusa, il libro del Gaeta, Giuseppe Gaeta. Un proletario e una storia. Sì. Ecco qua, pagina 151. Un trattamento uguale al mio, quello che ho letto adesso, toccò anche la compagna Gina Galeotti Bianchi. La incontrai l'ultima volta in questura in occasione di un confronto per mezzo del quale pretendevano che mi riconoscesse e rivelasse la mia posizione nel partito, cosa che la compagna si rifiutò di fare. Aveva il volto già pieno di lividi, poi la condussero nell'ufficio e là la sentì gridare e piangere, e era evidente che continuavano a torturarla. No, no, guardi, io non lo sapevo. Io pensavo francamente che fosse stato arrestato e torturato lui, non lei. Beh, se fosse vissuta l'avrebbe detto. Ma si vede che lei, che nella clandestinità, che non avesse ritenuto opportuno di dirlo, allora bisognava stare molto, molto attenti. Devo anche dire, con la mia esperienza che avevo fatto a Parma, Piacenza e Reggio Emilia, che a Milano c'era la vera cospirazione, mentre nelle altre piccole città, a Parma poi, guardi, non ne parlavo. Parma, figurarsi. Avevo un nome di battaglia io, Ermanna, ma mi conoscevano tutti. Mi chiamavano addirittura per la strada, Ermanna, Ermanna, io sì, Ermanna di qua, Ermanna di là, i nomi di battaglia non si devono mica dire. A Milano era veramente un'organizzazione capillare, una cospirazione vera, dura, perché sotto le torture non si è mai sicuri di che cosa. Basta, su, dai, che mi va sempre così, giù, dai, raccontaci su di qualcos'altro. Milano, adesso ci racconti. Ecco, deve sapere che io sono arrivata da Reggio Emilia a Milano in bicicletta. Cioè, ha messo la bicicletta in treno ed è arrivata a Milano. No, ma cosa dice? Pedalando di gambe, certo, pedalando. Quanto tempo ci ha messo, signore? Due giorni, io e la compagna di Reggio, sì, due giorni con la bicicletta. Guardi che signor Sati, che ho sentito recentemente un'intervista della Tina Anselmi, che quella lì, quando era partigiana, se non faceva 100-120 km al giorno in bicicletta, era lì, Giù lì, certo. Comunque, scusi, arrivati a Milano, noi eravamo il quarto, il quinto settore dei gruppi di difesa della donna, l'era Porta Vittoria o Porta Romana? Porta Romana. Ecco, l'era Porta Romana. E allora la Maria Zali mi aveva procurato un appartamentino dove facevamo anche le riunioni, ed è lì che veniva la Gina Bianchi insieme ad altre compagne. Ecco, e a questo proposito mi viene in mente un piccolo un racconto da farle, perché con l'8 marzo mi è tornato in mente del 43, l'8 marzo del 43. Mamma, conta su te, mi ricordi. Le racconto questa cosa qui, l'8 marzo del 43, noi lanciamo l'idea, perché prima non si faceva l'8 marzo. No, non si faceva prima. No, l'8 marzo l'abbiamo lanciato noi e abbiamo lanciato anche l'idea della mimosa. Prima non si faceva. L'abbiamo inventato noi l'8 marzo, e La mimosa come segno di riconoscimento di tutte quelle che volevano la fine del nazismo e del fascismo, quindi un segno di combattimento. Contrariamente a quello che dicono e vogliono far credere certi oggi. Non le dico la mattina dell'8 marzo a Milano. Tutte queste donne che mi sono venute fuori di casa col loro mazzolino di mimosa gialla in mano, che guardi una bellezza sulla città di Milano, tutta gialla, che bella, va. E poi, aspetti un attimo, dunque l'8 marzo del 45, quindi 2 anni dopo, decidiamo di fare un comizio volante dietro Duomo, il Duomo di Milano. Allora, i compagni mi portano una di quelle seggioline impagliate, non so se c'ha presente quelle. Che fai? Ma sta calma, sta calma, sì, esatto, devo farci vedere il comizio, se no non lo capisce, no? È fatta così. Sì, dai. Allora, io salgo sulla messa a mia sedia e comincio a fare il mio comizio. Basta! Basta con questa guerra, non ne possiamo più della guerra, vogliamo che tornino i nostri uomini dalla guerra, non c'è più pane, non c'è più carbone, noi vogliamo la libertà e vogliamo la pace. Ecco, era soprattutto questo che vi dicevo, vogliamo la pace. Però siccome che io c'ho la tendenza sempre a farla un po' lunga. La cicciarona. Grazie, la cicciarona. Fanno in fretta a passare 4-5 minuti se uno si va a prendere dall'entusiasmo, no? Sì. Beh, non arrivano mica quelli della Muti, lì, i fascisti della via Rovello, lì dietro il Duomo. Ed è piccolo, dove c'è il piccolo? Il teatro. Allora una compagna da andata al palazzo mi dice bisogna nascondersi, qui giù che c'è la cantina. Ecco, allora noi no dentro nella cantina, quelli là da fuori, adesso vi arrestiamo tutte, vigliacchi, i vostri uomini che mandano le donne vigliacchi, vengano loro in piazza se c'hanno il coraggio. Vegnaran! Ci ho detto sti tranquilli che vegnaran, e ci ho fatto anche il gesto così, che non è una roba che io d'abitudine faccio, però a me è una breve risposta. Però vede, è bravo. Per quello che però io dico, che la mimosa, l'8 marzo, sono di tutte noi. Com'era fisicamente? Può descrivermela, la Gina Bianchi, com'era? Ma guardi, la prima volta l'ho vista in gennaio, a una delle prime riunioni. No, non era alta. No, no. Aveva più o meno il mio fisico, così. Aveva il pancione perché era incinta, In gennaio aveva già il pancione? Certo, guardi che era già avanti quando in aprile la uccidono. Aveva il pancione che si vedeva bene, sono sicura. No, strano, perché c'è chi dice che quando viene uccisa era incinta di 8 mesi, chi di 7, chi di 2, no, chi di 4, no, chi di 5. No, io sono più per le 8, ma che si vedesse bene, si vedeva. Strana, come strana la storia delle due SS che la uccidono. C'è chi dice che ne fucilano tutte e due, chi una soltanto, chi nessuna delle due perché il camion sfonda la barricata e scappa in quel di Bresso, chi dice non si tratta di un camion ma di una camionetta. Voci di popolo che alternano la realtà con la fantasia, quel tanto da rendere tutto più però. La clandestinità prima, la morte dopo, della Gina Bianchi, se ne sono impossessati tutti, ognuno a suo modo. Le due targhe celebrative, quelle in via Bartolini, quella in via, qui in via Graziano Imperatore, in tutte e due le targhe c'è scritto che muore il 25 aprile, quando una delle pochissime cose certe di questa vicenda è che muore il 24, non il 25, il 24. Certo, il 24, io lo so, perché io l'ho conosciuta bene. Ah sì? Certo, l'ho conosciuta bene, per me era bella, guarda. Era dolce soprattutto, ecco, di una dolcezza che io non mi potrò mai dimenticare, proprio come farle un esempio di dolcezza? Ecco, il mangiare. Era lei che portava a noi il mangiare, il cibo necessario per la sopravvivenza, era lei che forniva queste cose. È fatto da angelo, ecco, guarda, ti ho fatto la pastina, mangiala tutta, è pochina ma è calda, mangiala tutta. Allora, le dicevo che la Gina Bianchi era, come tante altre donne che mi conoscevano all'ospedale di Niguarda, di fiducia. Ah, quindi era un'infermiera. Ma chi? Mamma, che infermiera? Ma no. La Gina Bianchi, ma scusi, ma no, la Gina Bianchi veniva dall'esterno, lei veniva in ospedale per vedere me, punto e basta. Poi dopo magari mi diceva, guarda che c'è quella donna, quella che c'ha il bambino, che c'ha il marito in carcere, è deportato, la sor Giovanna ha fatto dei pasto in più, portalo! Io prendevo sulla mia bicicletta e via, che andavo come un diavolo! Perché la Gina Bianchi era un po' la dirigente di città, perché allora bisognava stare attenti anche a fare delle domande, anche se si era amica e da un momento all'altro cambia idea e tac! Ah, io sono sempre stata molto guardinga da quel lato lì, ma... sai, vedremo se puoi venire. Io sono sempre stata allerta. Se mi prendevano, mi facevano a fettine. Eravamo incinta tutte e due, Giovanna, lo sa? Sì, lei era la fine della gravidanza. E la mia Tusa è nata nel febbraio del 45, di 7 mesi, una settimina. A furia di correre in giro per il mondo in bicicletta, vai di qua, vai di là, non è che la mia sia stata una gravidanza proprio normale. E poi, la vuoi sapere una cosa? La mia Tusa è nata settimina perché? Lo vuoi sapere o non lo vuoi sapere? Sì. Perché mi andavo in bicicletta, no? I tedeschi mi sparavano, mi sono spaventato, l'ho fatto, ci ho parlato strano. È vero. Quando è che l'ha conosciuta la prima volta la Gina Bianchi? La Bianchi, l'ho conosciuta in una delle riunioni dei gruppi di difesa della donna. Ma sì, quando ci sono stati gli scioperi di marzo, no? Noi staffette andavamo in giro a portare gli ordini. Guardi come si dice. Ma Michela, lì l'ho già vista. L'ho già vista da quel part. Ah, ma lui è una dei nostri, ecco. Non è che possa diffidarmi, cioè. Le spiego bene, magari la prima volta avrei anche diffidato di lei, perché non lo conoscevo bene, perché ognuno faceva parte del suo gruppo, però si lavorava tutti distaccati, cioè un giro vizioso che ci univa tutti, ma tutti distaccati senza conoscerci. Quindi, voglio dire, bisognava andare in giro anche per altri motivi, per esempio il cambiamento dei posti di lancio da parte degli americani e degli inglesi per i viveri, per l'assistenza, per le armi, Noi staffette allora non era solo un portacarte, furono 2 anni di enorme valore per i gruppi di difesa delle donne. Noi avevamo fatto tanto e c'erano sempre delle fucilate, combattenti e no. La Gina Bianchi, per esempio, Lia. Lì era il suo nome di battaglia. Noi fummo subito avvisate della sua fucilazione perché lei era una delle più attive nei gruppi di difesa delle donne. Era con la Maria Zali, la Vera Ciceri, la Irma Brambilla, la Nori... La Norina Pesce, ecco! Ecco chi può darle degli elementi sulla resistenza e sulla Gina Bianchi. Queste donne qui, perché guarda che a parte che del vostro interessamento qui al teatro della cooperativa, qui vostro, nessuno, e sottolineo nessuno, ha mai fatto una commemorazione come si deve sulla Gina Bianchi. Due le ipotesi. La più accreditata, secondo il Dante Olivieri, dizionario di toponomastica lombarda, niguarda deriverebbe dalla composizione di due parole, nova, che per la restrizione della O in I diventa niva, e varda, guarda. Niguarda, borgo agricolo, 2000 abitanti, alle porte di Milano, 1889. Con il presente atto notarile registrato alla cancelleria del tribunale, oggi in data 16 giugno, Niguarda si costituisce la cooperativa anonima L'Ancora. L'ispettore Ballanti indaga. Pretestuose, pretestuose ed infondate sono le accuse della questura. Non sono pericolosi terroristi, anarchici, semplici operai, contadini, muratori, che hanno dato vita alla suddetta società, ben più vasto e pericoloso, il piano conservativo del Crispi, arginare l'incipiente organizzazione della classe lavoratrice, non a caso scioglie il Partito Socialista nel 1894, lo stesso anno in cui, atto costitutivo, in data odierna 4 marzo 1894, alla presenza del notaio Carlo Bianchi di Milano, si costituisce per mano di 39 soci fondatori la società edificatrice di Niguarda. Di questi 39, metà venivano dall'Ancora, scopo dell'edificatrice? Semplice. Articolo 2. Quello che il bigamo Crispi, e non solo lui sia ben chiaro, non vuole. Acquistare terreno e costruire case di abitazione rivolte al benessere e al miglioramento della classe lavoratrice. Quota associativa? Per i tempi, modicissime, 25 lire. Una volta che avevi vinto su due design, per il maschiaccio, un uomo della mia curta, il santo. Subì. Il gombo e il merlo in gabbia che fischia, e fischia anche il casunetto. Un dì sulla terrazza, bardi il merlo e che disi. Santo, tu sai che le dresse fu l'altro merlo? Bandiera rossa! La bandiera rossa, che calzoletta! È una calzoletta bellissima! No, vuoi dire la minga, Neri, quella lì è una calzun cattiva! Però, ecco, però, se sei Davidino al merlo e la fischietta, è mi come lui, no? Ma da noi, però, questa calzun chi sa? Allora è al tempo dei fascisti, che era anche pericoloso per la strada, cantavi canzonette. E che avevi anche questo vizio terribilissimo da insegnare agli altri. Te la vorrei in mano, a carti qua. Chi in prima fila una bella canzonetta? Lei la bandiera rossa. No, ma che vuol fare? No. Allora. Bandiera. Canta che non ti sente la Maria. No, sono sorda, guarda, allora, se sono due metri. Sì, prima piano. Bandiera rossa. Sì, piano. Brava, e adesso forte. Bandiera rossa, la trionfera. Ma è finito! Tutti insieme! No, no, no! Bandiera rossa, la trionfera. Lasciate fare la trionfera. Vai a casa! Bandiera rossa, la trionfera. Vai a casa! È finita la bronismo e la libertà. Smettila, stai dritto che mi fai venire i nervi. Stai dritto! Te visto che quella lì mi va in giro a spargere la violenza? È tutta colpa del merlo! Merlo, io! Io sapevo già leggere e scrivere da quando avevo 4 anni. Abitavamo in via Ornato 59 verso i Dazi e io andavo alla scuola di via Passerini. Le scuole erano o preti o fascisti e io sono finita in una classe tenuta da una suora. Le mie compagne erano gelose e invidiose perché dopo i compiti dalle scuole si ricamava. A me non piace ricamare, io so leggere bene, non so cucire un bel niente, non mi interessa niente, allora mi metto in fondo alla classe e mi guardo la Bibbia con le illustrazioni di Adore. E voi restate lì a cucire! A te piace cucire? Piace leggere? Sì, mi piace molto leggere, signor direttore. Bene, e che cos'è che ti piace leggere? Mi piace la Bibbia e i racconti di Andersen. E qual è il racconto della Bibbia che ti piace di più? Quello del figlio di Davide a Salome il ribelle. Te lo ricordi? Certo che me lo ricordo, glielo racconto. Sì. Allora, e Davide si ribella, il padre è diventato dittatore, no? Fugge nella foresta dove è rincorso dai soldati, però a Salone corre velocissimo perché c'ha questi muscoli alle gambe così belli, forti, questi muscoloni alle braccia, anche lì che questa pelle bella. bello, morbido, bellissimo. E questi boccoli biondi, io a volte la notte mi metto lì col libro. La Bibbia. La Bibbia? Sì. Allora. Assalone cavalcava il mulo. Il mulo entrò sotto i rami di un grande terebinto e la testa di Assalone rimase pigliata nel terebinto e così egli restò sospeso fra cielo e terra, mentre il mulo che era sotto di lui passava oltre. Un uomo lo vide e disse a Iob: «Ho visto Assalone appeso a un terebinto!» Allora Iob prese 3 dardi e li immerse nel cuore di Assalone. Ah! Ah! Che era ancora vivo nel volto del terebinto. Molto commovente come storia, però se non sbaglio la morale sta nel fatto che Assalone si ribella al padre, all'autorità, e a te piace questo? Beh, Davide si era ribellato a un oppressore, poi a sua volta è diventato dittatore, quindi il figlio ha fatto bene a ribellarsi, no? Il direttore mi guarda esterrefatto e se ne va. La suora in fondo alla classe mi fissa e non dice nulla. Ma come? Ma io sentivo il mio papà dire queste cose, che la dittatura, l'oppressione non andavano bene, quindi... Pensate che alla fine dell'anno, nella mia scuola, davano in premio i racconti della zia Mariù. Ma il direttore deve aver capito di me qualcosa, perché a me non ha dato quel libro lì, ma... La storia del mondo di Lauro Orvieto. Grazie. Oh. A me sarebbe piaciuto tanto studiare, però noi non avevamo la possibilità, così il mio papà mi ha mandato alla scuola di avviamento professionale. Lì, nella biblioteca della scuola, c'erano i libri con gli eroi fascisti, i libri tipo Harmony. A me piacevano i Promessi Sposi, Piccolo Mondo Antico, io. Io sono per la cultura del libro, perché se andiamo avanti così, ci imbesuiscono con questa televisione. A me mi piace balà. Anche a me tanto. E mi scappavi per andare balà. Ai tempi nostri andava là, anche se andavamo in cooperativa, pensa, era una tragedia. Chi va a balà le minca una brava tusa. Ecco, l'hai sentita lei? Al cinema peggio, perché il cinema era scandalo. C'ho proprio quando andavi stesso. Balavi nella sala Risorgimento. Adesso ti ha fatto il teatro con le sedie fisse, intellettuali. E andavi. A volte in bicicletta. Allora eravamo velocisti a correre, perché i tedeschi fascisti correvano per prenderti, tu scappavi, mica come pure una testa. Dalla via Borsieri all'ospedale, 3 minuti 4 massimo. Una volata, altro che centrometristi. Altre volte andavi a balà a piedi, sempre marciando. Gavevi scarpette col tac. Mandavo piedi nudi alla fontanella, alla fabbrica, mettevi sui scarpette e andavi a balà. E dopo, scusami un attimo perché ci devo spiegare bene. E dopo me, che ne eri una bestia fin da allora, quando arrivavo a casa tardi, come entravo nel portone, pestavo i piedi, patapim, patapam, patapam, e mi sentivo in triste. Vergognosa, una vergognosa, che ti avevo detto di tornarmi a casa alle 10:30. E ando a casa alle 10:30, e quindi smentita da casa a mezzanotte, ci ho appena fatto te stessa. Allora vieni in casa e te che curare. È sempre così, patapim, patapam, patapim, patapam, e il bastian contrario, tutto quello che mi diventa fa, mi apposta e fa di mimica, perché a me mi piace sbalare. Che non lo pare che sei cicerà, sì! Oh, come mi piace sbalare! Di coscienza certe cose non le faceva. C'era un vecchietto, sto povero vecchietto, faceva freddo, aveva tenuto sul cappello. Allora Rossi è andato lì sulla via Ornato, qui all'angolo, e gli ha detto coi suoi squadristi: ti leva quel cappello quando passo io. Ma quel vecchietto lì era un po' sordo, non aveva capito bene. Allora Rossi l'ha preso, gli ha dato 2 schiaffi che l'ha sbattuto per terra. Un uomo di 80 anni. Quelli hanno avuto il pelo sulla coscienza. La cosa si faceva un po' troppo pericolosa. Allora in Longoni mio marito mi ha mandato via dai suoceri. Lui veniva il sabato e a lunedì tornava al lavoro. Dopo il bombardamento dell'agosto del 44 ho avuto un altro bambino, Max, che ho voluto tornare a casa, però sono tornata di nascosto da Longoni. Lui non lo sapeva perché lavorava clandestinamente alla Pirelli di Coppa nella brigata Matteotti, insomma. Torno, entro nel portone, salgo le scale, apro la porta di casa e... c'è due partigiani con la barra, ma io neanche li conosco questi. Signora, signora, non ci faccia del male, la prego. No, no, tranquilli, tranquilli. Io sono la moglie del Longoni. E il giorno dopo mi ha rispedito di nuovo dai suoceri con i miei bambini, perché il Longoni non voleva che questi partigiani andavano via. Spesse volte a casa mia veniva anche Giovanni Pirelli alle riunioni, non so se era 2 o 3 volte a settimana che veniva, proprio quel Giovanni Pirelli, quello lì che aderiva alla resistenza, mi pare l'hanno anche buttato fuori casa, sì certo l'hanno buttato fuori casa perché era un socialista, e quante volte veniva da me a dirmi, signora la prego mi faccia la politica. Sono rimasta, è proprio lui, quello lì, Giovanni Pirelli dei pneumatici, un grosso industriale che mangia la polenta in casa mia col sughetto. Ma guarda te. Mi ricordo bene il primo partigiano che ho ospitato a casa mia qui a Niguarda, poi dopo non ha fatto altro che andare e venire, alla fine ci davo le mie chiavi e loro s'arrangiavano. La mia casa era sempre occupata. La Fogagnolo, per esempio, la moglie di uno dei fucilati di Pierpaoletto. La Fogagnolo è partigiana, pure venne anche la Samela lì. Signora, ci hanno detto, lei adesso sta qui un po' con la Cesarina su me, e poi dopo noi vedremo di trovarle un'altra sistemazione. La Fogagnolo, lei era la moglie di un ingegnere, gente raffinata, mica poveracci, magari voleva qualcosa di più. Invece lei, dopo che mi è rimasta lì con me per un po', la fa, no, guardate, io sto benissimo qui con la mia Cesarina, non cercatemi nessun'altra sistemazione perché io non voglio assolutamente andare via. E mi è rimasta lì, addirittura fino al tempo dell'insurrezione, sì, guarda, fino al tempo dell'insurrezione. Una sera, per esempio, allora io ero al seguito dei più anziani, c'erano i paratti qui dietro, in pieno fascismo. Insomma, per tirare un po' sulle speranze, non decidiamo di andare a contare ai prati qui dietro l'addio Lugano Bella, proibito. E piano piano la sera andiamo e ci sono le gelosie delle case di Armada che sono chiuse. Sì, le gelosie sono chiuse, ma da dentro si vedono le luci che si accendono una ad una, loro non cadono, ma qualcuno dice, oh, nei prati qui sotto, guarda che rischio è la galera, I campi, l'addio Lugano Bella. Anarchici van via. Ecco, non so, per dirtene una, no, per esempio, lì in via Guglielmo Pepe passavano i treni che dovevano portare i deportati italiani in Germania e dovevano sostare lì alla stazione di Porta Nuova, quella che adesso è nella stazione di Porta Garibaldi. Bene, c'era una compagna, la Lisa. Lisa dagli occhi blu mi lascia mai, perché ci aveva veramente gli occhi blu, ma lei faceva la butacu. Lei faceva la vita. La Lisa aveva il compito più difficile di tutti, doveva fare da esca. Allora lei cosa faceva? Tirava i tedeschi in un angolo e mentre lei stava lì con i tedeschi a fare cose che non voglio neanche star qui a nominare, noi spiombiamo i vagoni, i militari vengono giù dai treni, si buttano nei portoni delle case di fronte e noi dietro coi catenacci, trac, trac, trac, chiudi quella porta lì! Un'azione militare fatta proprio da noi donne. Ma io e la Lisa siamo cresciute assieme, è l'unica che mi ha fatto piangere al funerale. E me la ricordi ancora, quando andavo lì al quartiere dell'isola e lei mi vedeva da lontano e mi chiamava Silvana, io andavo lì, me la abbracciavi, gli altri no, perché aveva fatto la vita. Lei per me della roba sua, lui faceva quello che voleva, io l'ho sempre pensata così. Dopo l'8 settembre c'erano tanti soldati, tanti partigiani che scappavano e bisognava aiutare questi ragazzi a scappare perché c'erano in giro i repubblichini, non i nazisti che si riportavano via. E a Niguarda ci sono stati parecchi che hanno portato via. C'era un ragazzo, Giuseppe, che era collegato con la commissione di Breda. Il Giuseppe ha corso un bel rischio, oggi c'è stata una spiata franca dentro, hanno messo i repubblichini dentro la Breda. Io vado subito dalla mamma del Giuseppe che mi dice, ma lo sai Teresina, mio Giuseppe, mio ragazzo, non è ancora arrivato, sono qua a aspettarlo, non è ancora tornato. E in quella che siamo lì, che stiamo parlando, sto filo le venite dei ma vedrete più che era repubblichini e la sua mamma la sera staccata al collo, lui ha dato un stratun, l'ha portata via lei. E lei è morta. È morto nel campo di Mauthausen. In via Moreschi 1 abitavano il signor Andrea Domenichini e moglie, partigiani. Il loro figlio unico era stato deportato nei campi di sterminio tedeschi, eppure loro non esitarono a ospitarmi pur sapendo che ero ricercata. Una notte del gennaio del 45 veniamo a sapere che alcuni fascisti stanno per rastrellare la zona. È l'una di notte. Scappare è impossibile, nascondersi un vero problema. Il signor Andrea mi indica un piccolo ripostiglio dove tiene le valigie. È questione di un attimo. Per rendere la cosa più normale, il signor Andrea finge di farsi la barba. Dopo una decina di minuti bussano alla porta e si presentano i tre fascisti e gli chiedono come mai si facesse la barba quell'ora lì. Perché non prendevo sonno e quando non prendo sonno per portarmi avanti mi faccio la barba. I tre si guardano in giro sotto il letto, sul balcone, nel bagno, uno con il calcio del fucile. I tre guardano la valigia, per fortuna che c'è poca illuminazione, poi... E poi se ne vanno. Nessuno ci avrebbe salvati da morte sicura. Adesso sono 10 anni che non cammino più. Che non cammino più, che non vado più in giro. Mi certi volte quando mi vedo a voi giovani che andate per le manifestazioni, andate a Roma, andate a Genova, come adesso che siete andate a Roma per la signora Sgrena. E mi può di non andare, che dice la mia sorella, mi se potessi. È che non riesco a camminare tanto, mi manca anche il fiato. E mi, se fu 3 passi, 3. Vanno da chi è lì? Mi sembra adesso il Bobby. Il fiato mi manca per colpa mia, eh. C'ho l'efisema, l'asma, il qua che girano giù. La colpa non è solo della vecchiaia, è anche degli strapissi. Balavi, bevevi, fumavi, però l'unica soddisfazione quando proprio sei arrabbiata, nervosa, che ti metti una bella sigaretta in bocca. Ah, ecco. Adesso che manca più quella. E mi consoli certe volte quando sono qui da sola. È la domenica che mi viene la malinconia, non lo so il perché. Non ve lo dico il perché non lo so neanch'io. Quando viene la domenica mi viene la malinconia, allora mi viene in mente di tutto quello che facevo, però c'è anche il momento che mi viene da piangere. Ti metti proprio veggia. Mi viene in mente la mia mamma, il mio papà. Ecco, il mio papà nel 40 l'ha richiamato a militare. Era della classe del 90 e l'ha richiamato in ste. Perché? Perché l'ero russo un comunista. Quando veniva il Duce a Milano, il mio papà veniva a casa ammancato, pieno di botte. La mia mamma l'ha sostenuto fino alla fine. Quando è tornato dalla guerra è stato ricoverato all'ospedale di Niguarda ed è venuta una croce rossina dalla mia mamma. Signora, io glielo dico dov'è suo marito, però non vada lei, perché sennò sanno che glielo dico io, sanno che ci conosciamo. Mandi qualcuno. Ecco. Manda la Silvana, che la linea è una bestia, la capogura di niente di nessuno, e mi sono andata. Sono passata 4 volte davanti alla corsia, e avanti e indietro, a guardare i militari a letto uno per uno, a vedere se conosceva il mio papà. Non l'ho conosciuto. Era un cadavere. L'aveva fa la pleurite, eh. L'aveva fa la pleurite, niente di grave, potevano curarlo, ci dovevano togliere l'acqua e ci hanno bucato il polmone. E lui gridava che gli faceva male, allora è dottura Gandini. Tanto è un rosso, può anche morire. Nel 42 è tornato, però la fa la vita tra la casa, il sanatorio e la casa. Quando è incominciata la resistenza, i compagni sono venuti a cercare il mio papà, ma... Io non posso più aiutarvi, però c'è qualcuna che può fare il caso vostro. Bisogna tenerle le briglie bene strette, la Silvana, perché lei è una sacramenta, ma farà quello che deve fare. E mi lo fa, le morne il 48. È morto nel 48, mio papà era del 90, la fa, la guerra di Macedonia, quella in Grecia, quella di Caporetto, quella del 40, ma quello lì quanti anni di guerra la fa più se guerra che vita. Pensa se mi viene anche a mo' la guerra. Mi gu due fieu, uno del 42 e l'altra del 45, la libera. Comunque, se ci fosse stata un'altra guerra mia, andavi davanti alla caserma, davanti, ma il mio figlio fa la guerra per i governanti, andava no! No, mi dispiace, me i disertur che guerriero. Disertore, direi tu, che parolaccia! Sì, me i disertur che guerriero. Almeno il morminga, tanto ci teme di morire. E adesso cosa faranno? I missili intelligenti per la Siria? No, mi la guerra la veri propri, no. E invece? Stonano malefico, eh? Che quando lo vedi per televisione, a parte che mi... Come lo vedi per televisione mi la smorsi subito, che con paura che mi contamini. Stonano malefico, vabbè, basta. Basta non farmi dire più niente, eh? Sempre a leghe. Sempre a leghe. E sempre allegri, bisogna stare, che il nostro piangere fa male al re, fa male al ricco e al cardinale, diventano tristissimi. col piangiapone. Quando arrivava un re, un gerarca fascista, anche il mio papà. Anche il mio papà lo mettevano dentro per precauzione. Nel 25, subito dopo il delitto Matteotti, avevo 4 anni. Mattina molto presto, le 4. Arriva un camion di fascisti, sono una trentina. Tutti in divisa, vestiti di nero, con il felscastano. Fascisti, terror dei comunisti. Vengono su in casa, i miei sono a letto, io in mezzo a loro. In questura, alla casa del fascio, alla casa del fascio, via! Coperte, solleva la sottana, non sarebbe la prima volta che le donne nascondono le armi in quei posti lì! Mio padre urla, mia madre si ribella, prendono mio nonno! Ma sta la mia mamma, brutta disgrazia! Cercano le armi in cantina, in una culla c'è una vecchia protesi di mio padre che brilla nelle giunture metalliche! Abbiamo trovato le armi, abbiamo trovato le armi! Mio nonno dice! Ah sì, la protesi, la gamba che ha perso nella prima guerra mondiale sarebbe l'arma, adesso ho venato io in testa l'arma! Via! Si sono ritirati. Hanno portato via mio papà. L'ha tenuto 2-3 giorni, intimidito, minacciato, ma non infierito fisicamente. Non sapevano cosa farne. Arrestarlo non potevano, non aveva le prove di niente. E portarlo in Germania senza una gamba troppo debole era inutile. Quindi lo ammazzavano subito. Noi siamo andati a trovarlo in ospedale, non se l'aspettava, era gonfio. Come stai, papà? Non c'è male. Cosa c'è che non va? Cimici, comunque voi andate avanti, sapete cosa intendo. Andate avanti. E quindi... quindi io, che rabbia, che rabbia, ed è proprio pensando a quel momento lì, pensando a quel momento lì che molti anni dopo sono entrata a far parte dei gruppi di difesa delle donne di Milano, con la Ciceri, la Giuditta San Giorgio, le sorelle Resnati, la Irma Brambilla e altre donne della Sant'Agostino, belle, brave e belle le donne di Niguarda, eh? Le donne di Niguarda hanno fatto delle grosse manifestazioni, c'erano appunto anche la San Giorgio, la Resnati, e poi loro vivevano qui in un quartiere che qui di Niguarda, che è un po' come una città, c'è tutta questa rete, e poi loro erano tante, avevano dietro il socialismo, le tradizioni, l'edificatrice, l'ancora, per non parlare dell'ospedale. Il primo documento ufficiale relativo a Niguarda ha per protagonista San Germano, vescovo di Auxerre, il santo nella prima metà del V secolo e di passaggio per Niguarda, ospite del nobilotto del quartiere, il moribondo Leporio. San Germano si ferma, lo guarisce, poi che deve fare? Poi se ne va. Il miracolato Leporio, per ringraziamento, gli costruisce una chiesa che stava proprio laddove oggi il centro carne offre qualità, convenienza, garanzia e maialini da latte, che sono una meraviglia, il tutto in quel del Gernato al numero 33. Che sia stato lo spirito di quel praticone di San Germano che aleggia ancora nell'aria, che portò la costruzione del primo lotto dei lavori del mastodontico complesso ospedaliero alla giusta distanza dal centro di Milano, lontano dai feti di miasmi del sud, dalla falda acquifera alla giusta profondità 5 metri, 5 metri e mezzo, a farne le spese, le povere cascine Cassinette, Fresiana, Piniscera, dove poi nel dopoguerra, caspita, se si fucilò, nonché nell'oratorio del povero sacerdote Pezzoli Stefano Don. A cantieri già avviati, trionfa la visita del Duce, una delle tante piccolissime italiane accorse, lo vede in lontananza, lo saluta, si fa largo fra la folla, riesce ad avvicinarsi, gli stringe la mano, gli dà un bacino sul crapone, lo abbraccia tutto, ma... Oh, il po'. Che cosa? Il nostro Dio. Sì. La nostra luce è tutta una corazza di ferro! Per forza, i fascisti a Niguarda hanno paura degli attento! E poi c'erano gli infermieri, no? Che il giorno dell'insurrezione sono saltati fuori a sparare a destra e a sinistra con i loro fucili, ma andai io dall'ospedale alla Pirelli a prendere le armi, 5 fucili sulle spalle, 3 di qua e 2 di là. Poi dopo, quando sono arrivata lì all'ospedale, sono saltati fuori gli infermieri, mi hanno preso tutti i fucili e cominciato a sparare ta-ta-ta-ta-ta, a destra, a sinistra, a fare gli spacconi che non avevano mai fatto niente. Sì, gli uomini lì dell'ospedale durante la guerra, alzare un dito, fare una mossa, aiutarmi a far scappare questo o quello dall'ospedale, mai una volta lì. Gli uomini dell'ospedale aiutare durante la guerra, zero. Certe infermiere vivono in pensione a casa delle donne di Niguarda e le donne di Niguarda le hanno istruite ben bene e le hanno coinvolte nella lotta di liberazione, ma quella che fa di più, anche se è una suora, è la suor Giovanna, l'anima di Dio. Io le armi in casa mia, 12 via Borsieri, le sto punendo. E il fratello di una mia zia mi denuncia. Mi denuncia dicendo che ho le armi in casa e che sono una comunista, no? Soltanto che non ci ha detto il nome e non ci ha nemmeno spiegato bene chi ero, come ero fatta. I fascisti vanno su dalla mia mamma al terzo piano. Oh, no, no, no, guardate che mia figlia non c'è in casa. Lei è uscita e l'è andata a fare... La fa la puttana. No, sì, no, no, no, calma, calma, calma. La mia mamma dice così. Dice così che faccio la dolce vita per non far capire... che facevo questa lotta clandestina, ma lo sanno tutti quello che faccio, così sono sempre in giro, no? Giorno e notte. Silvana, mica cercati. Sì. Ma mica quattro mitra. Con quattro mitra dentro in casa. Ma come faccio? Prendo la copertina, quella bianca, quella del bambino, dai, prendo su, metto dentro il quattro mitra, faccio su un bel fagottino, lo prendo su ed esco di casa, devo correre però. Faccio il secondo piano, corro, corro, corro, corro. Più di cosa, il primo piano, devo correre, devo correre. Vado giù per la scaletta, guardo a destra, guardo a sinistra e vado. Dove pensa di andare, bella signorina? No, porco cane, il fascista. Guardi, devo andare all'ospedale di Niguarda perché mio bambino sta male. Ma sta veramente male? Sì, sì, sta male. Lo vuoi vedere? No, no, no, no. L'accompagno io, sai no. Che macchina. No, prego, mamma, prego. Silvana, stavolta te vedo al muro, Silvana. È la volta buona, guarda. No, mi guarda lì. A notte sei chi? Ma la conosce anche lei? C'era dentro tutto, no? Suor Giovanna, il mio bambino sta ancora male. Bambino, se dammi la mia creatura, va. Beh, sa perché? Perché mi riportano tutti qui, perché fuori c'è poco da mangiare, sono deboli. È delicato. Sì. Non sembrerebbe. Comunque io rientro perché ci sono i cecchini, c'è il coprifuoco e ci mancherebbe che un fascista ammazzasse un altro fascista. Cristo Regni! Cristo Regni. Sempre. Non me le devi portare qui in ospedale, io cosa posso fare con queste armi? Non posso mica ingessarle, no? Dai! No, no, perché questo va tutto adesso, ve la devo spiegare, perché se no non la capite bene. Cioè, la suor Giovanna, che le lei, no? O una delle sue infermiere, se le arrivava un pericolo così all'improvviso, i tedeschi, i fascisti, lei prende il partigiano, una puntura del chiude, non so cosa, fra febbre sua 40. Oppure il partigiano, no? Tricheti, tracheti, tricheti. D'un tratto si trovavano così tutti ingessati. Così stava benissimo. Quello lì è tutto rotto, non si può mica portarlo via, eh. Oppure ci facevano i punti alla bocca, no? Alle gengive. E quello lì. Non potevano interrogarlo, andavano via. E quando proprio? Quando proprio che era più niente fa. Fra! Obitorio. Oddio. Faceva un po' frecce, che erano tanta bella compagnia, però almeno lì i tedeschi, i fascisti andavano proprio in aereo sicuri. Ecco, io me ne sono passate con la suor Giovanna, e con le infermiere del suo ospedale, fughe di ogni... Ecco, c'è stata una fuga proprio clamorosa. Com'è che si chiamava? Tortorella. Ah sì, ecco, il Tortorella. Ottobre 1944. Io ero stato preso alla fine dell'estate, ero stato più di un mese nelle carceri di San Fedele. Dopo i bombardamenti mi portano all'ospedale di Niguarda, che è un paradiso a confronto. Anche lì sbarre alle finestre, ma capisco subito che c'è qualcosa di... C'è un'infermiera che ha un atteggiamento... Insomma, si capisce subito che è dei nostri. Questa notte esci dalla finestra. Un ragazzo non avrà avuto neanche 20 anni. Devo salvare questo ragazzo qui. Allora mi metto d'accordo con la Berti e escogitiamo un piccolo piano. Lei a un certo punto comincia a sgridare un aiutante, a dirgliene di tutti i colori che, poverina, devo dire la verità, non aveva fatto assolutamente niente. Però i questurini e il personale cosa fanno? Si avvicinano per vedere tutto sto trambusto e si mettono in mezzo. Mentre loro discutono, io prendo il Tortorella sotto braccio, lo accosto all'ascensore, lo scaravento dentro e poi fram, su fino al quarto piano. Tanto dice l'oculistica, sono tutti orbi. Arrivo su. E avevo messo in cucina una scala e c'è un vano sopra vuoto. Mi porta al reparto radiologia abbandonato, in un angolo c'è una scala, montacarichi, sopra un vano vuoto. Va su là e non ti muovere più assolutamente, fino a quando non ti vengo a cercare io. Me ne sto qui nascosto tutta la notte, fuori si sentono le sparatorie. mi portano qualcosa da mangiare, la terza notte mi portano nel collegio delle infermiere diplomate, bisogna attraversare un tratto scoperto. Un bel momento, io prendo il Tortorella sotto braccio e lo accompagno fino al convitto delle infermiere diplomate. Non c'è niente di segreto, queste infermiere diplomate, ecco, ecco perché dico che la resistenza è stato un fatto di poco. Io me ne sto lì, accudito da questa suora, Sor Giovanna, e ci sono queste 40 infermiere che passano e ridono perché l'unico uomo, l'unico ragazzo lì dentro sono io. Passano, sanno che ogni tanto lì arriva un partigiano, si organizza una di queste fughe, ma tutte 40 sanno, ma non fanno la spia. Due questurini sono lì vicino alla camera mortuaria col fucile perché sanno che è scappato un Tortorella dal reparto e... Le porte sono sorvegliate! Tutte le porte sono piantonate! Tutte? Tutte meno quella delle infermiere diplomate. Allora cos'è che posso fare? Dai, fatti venire un'idea adesso, un'idea, dai. Ma semplice! Ma adesso il Tortorella da infermiera, no? Infermiera, mi porta un vestito completo da croce rossina, vestito da donna di tutto punto, scarpe, cappellino, gonna, tutto il resto. Usciamo dall'ospedale, da una porta del retro, da dove solitamente escono le infermiere diplomate. E quando i questurini si avvicinano io faccio finta di niente, come una donna in borghese che accompagna un'amica e... Beh... C'è nessuno per la strada e... In una strada buia, un po' secondaria, fa freddo, piovigina, questa infermiera, questa ragazza mi tira dentro in un portone e mi dà un bacio sul serio, un bacio di quelli veri. Io, un ragazzino alle prime armi, mi sembra una cosa meravigliosa, meravigliosa, tanto più perché inaspettata, un bacio da questa giovane donna di Ferrara, bella. No, beh, no, il Tortorella non è tanto grosso, non è robusto, beh... Aspetta, a meno che non lo sia diventato adesso, sarà ingrassato e alla camera. No. Allora era un bel ragazzo e avremmo avuto tutti e due 20 anni o giù di lì. Beh, comunque una donna mi diede la sua casa disponibile, la chiave è sotto lo stuoino e ci portai il Tortorella. Tortorella, stai qui. C'erano allora ogni guarda delle abitazioni monofamiliari, una di queste, di una dottoressa, un dottore, adesso non ricordo, dentro ho trovato i miei vestiti, ho lasciato la mia divisa da infermiera, non sapevo dove andare, mi avevano detto di andare in via Canova dove c'era un appartamento segreto. E io la mattina dopo sono tornata all'appartamento di Niguarda e Tortorella... E Tortorella non c'è più, ma ha lasciato qui la sua divisa da infermiera, ma sto cretino, ma se n'è andato, ma poteva aspettarmi, no? Durante la guerra tutto è diverso, perché ogni giorno si rischia la vita. In quel caso lì cosa si è fatto? Un piccolo gesto, una cosa carina, un piccolo bacio, niente di morboso, una cosa bella, carina. Allora era un ventenne, allora. L'unica cosa che ricordo con nettezza. Era un bel ragazzo. L'unica cosa che ricordo con nettezza. Piaceva. Del 45 e i partigiani vogliono il mio balcone per sparare. Io cosa devo fare? Ci do le chiavi del mio appartamento e me ne vado via con i miei bambini. Tre bambini, l'ultimo aveva 5 mesi. Lì sopra sul balcone della salumeria Rizzi c'era la mitraglia e qui sul mio balcone c'erano i partigiani, il Valeriano, il Parini con la mitraglia, non lo so cosa. Le partite proprio da qui, da Niguarda, dalla via Ornato al 7, la risurrezione di Milano. Il 24 aprile mia nipote Iole esce con la bicicletta per andare a delle riunioni. Ha non so quali messaggi da portare. Stiamo aspettando altre compagne, tra cui la Gina Bianchi. Io mi occupavo della zona Zara Stazione Centrale e la Gina Bianchi era la responsabile del settore di Niguarda, settore terzo, però noi non ci conoscevamo. Io l'ho conosciuta il giorno della morte. Appuntamento piazzale Maciacchini davanti al baracchino dei fiori. La ragione dell'incontro, diciamola la ragione ufficiale, era che alla Gina Bianchi sarebbe stato affidato da quel momento un incarico più importante nel gruppo provinciale dei gruppi di difesa della donna e io devo quindi prendere il suo posto alla direzione del settore terzo, il settore di Niguarda, quello che prima dirigeva lei, no? Ed è quindi prevista una piccola riunione proprio qui, in via Ermada 8, per due ragioni. Una è per il passaggio di consegne tra me e la Gina Bianchi e l'altra, più semplicemente, per presentarmi alle donne di Niguarda. L'insurrezione è già nell'aria. 24 aprile, pomeriggio presto, piazzale Baciacchini. È la Maria Azzaglia a combinare l'incontro e il segno di riconoscimento, no, non ricordo bene, se era forse un fiore o un giornale o... Un giornale. Una donna simpatica, piacente, appoggiata con la bicicletta. Io non sono mai stata puntuale in vita mia, ma lì, durante la resistenza, è questione di vita o di morte. Non puoi arrivare neanche in anticipo. Allora lei in bicicletta, io in bicicletta e capisco subito che c'è qualcosa di strano, è un modo come sale in bicicletta. E dopo qualche pedalata, ma c'è qualche novità? Sono incinta. Incinta? Di quanto? 5 mesi, e quando nascerà? Quando nascerà i fascisti? Non ci saranno più. Di dove sei? Di Milano. Io sono di Suzzara, mio marito invece è cremonese, sai? Si chiama Bruno Bianchi, è in carcere a San Vittore, sono stata in carcere con lui, poi... Beh, io e lui questo bambino l'abbiamo fabbricato in un intervallo del reciproco arresto, senti... Ora ti dico una cosa che tanto sappiamo solo io e te, domani liberano mio marito, ma non solo lui, e vengono liberati tutti! Ma come fai a sapere certe cose, dai? Scusa! Ma figurati, queste sono cose che non si dicono. Lei ha una premura, un'agitazione che va molto al di là dell'incontro con le donne di Niguarda. Probabilmente lei deve avere l'indicazione dell'insurrezione di Niguarda e qui succede qualcosa. Dobbiamo fare in fretta, non c'è un minuto da perdere. Ho capito, ha qualche messaggio, ha qualche indicazione. Accidenti a questo ospedale. Lia, sai cosa potremmo fare? Per arrivare in via Armada potremmo passargli da dietro, che è più sicuro, non di qui che ci sono gli spari. No, io sono d'accordo con te che se si impiega lo stesso tempo senza rischiare, bene, però vedi, dobbiamo anche prendere la strada che ci serve di più, perché non ho bisogno di dirlo a te. È proprio in questi momenti che si vede il coraggio dei comunisti. Sì, ho capito il coraggio dei comunisti, ma qui fra poco vi appoggio allo scontro, perché è cominciata, sta cominciando l'insurrezione. Non c'è tempo di fare la strada dietro l'ospedale, è troppo lunga. E intanto arrivano i camion tedeschi e fascisti e forzano il primo posto di blocco, che i partigiani con loro fucili tentano di sparare nelle ruote in quel pezzo di via che va dall'inizio proprio di Niguarda, sfocia in una piazzettina un po' prima di via Armada, dove noi dobbiamo arrivare. Intanto si intensificano le cose. A un certo punto un gruppo di partigiani, 4-5 compagni, non di più, non abbiamo una barricata, un ostacolo, qualcosa, e ci dicono: a terra, a terra, giù! Dietro, una mitragliatrice dietro, arriva su una camionetta nazista, si porta davanti a noi. Lia, c'è un rialzo lì, facciamo tutto velocemente perché il camion dietro. Donna alla finestra, me la ricorderò per sempre, come vede che mi alzo, si fa il segno della croce. Meno male, almeno vena le salva. Ho capito. Allora devo chiamare i compagni per cercare di tirarla su, ma niente. Lanciata proprio nel seno, nel ventre. Una male lì. Aspetta che venga la tua ora di buttarla via. Mia mamma fa la portiera a via Graziano 34, e la porta a casa della mia mamma. Butta dentro sta donna con la bicicletta, è quasi morta. E già, insomma, è morta lì. Un disastro in quella casa lì. Un disastro, un macello, tante donne, tanta gente, la barricata proprio lì davanti. E l'è morta proprio a casa della mia mamma. A casa rossa. Era incinta di 4 mesi, ma non so, l'avevano al pancione. Era una bella donna, una bella sua, e dopo la portano dentro a casa di un compagno. Mi danno le sue cose, mi danno la sua borsetta, io sto lì un po' con lei, ma cosa devo fare, insomma, che cosa? Poi mandano a chiamare le compagne del partito, del partito del movimento. A me mi accompagnano in birma da 8 al circo. E questo? E questo è il posto? E questo è il circolo? E lì ci sono le donne che preparano il caffè perché hanno il caffè e c'è un profumo. C'è un profumo di caffè. A un certo punto arriva questa donna, tutta spaventata, addolorata, con il cappotto strappato. La portinaia le aveva dato 2 punti, così, tanto per tenerlo assieme. Stellina Vecchi. Hanno sparato. Hanno ucciso la Lia. Stai qui un po' con noi. Stai qui con noi e siediti che parliamo. 10-12 donne cosa stanno facendo? Cosa di una poesia, secondo me, un valore politico immenso. Stanno cucendo già i bracciali. I bracciali per il giorno dopo, per i partigiani, per l'insurrezione. Poi siamo lì, si discute di quello che si deve fare. Quello che avrebbe voluto la Lia, cucire di più. Ci siamo anche permesse di dire che il bambino mai nato sarebbe stato nostro e poi... E poi le donne mi dicono... Turna Cades, dai, se vedo un domani. Sta tranquilla. Sta tranquilla e riposa. Vuoi che ti accompagni? I balconi di Niguarda sono pieni di sasse. 2 volte i fascisti arrivano in massa per rastrellare. 2 volte sono cacciati a furia di sassate. Prego, signora. Questa notte c'è la riunione in casa mia con tutta questa gente. Signora, succederà qualcosa stasera, ma non si preoccupi, non si preoccupi. I partigiani hanno sequestrato un'automotte di benzina. Hanno portato le mie armate, loro 14 sotto le nostre finestre. L'automotte è ancora lì? E certo che è ancora lì. Bisogna utilizzarla per i bambini. I bambini? Per le case, sì, i bambini. Andiamo per le case, fatti dare bottiglie e stracci. Ci vuole un rimbuccio. Ci pensa la donna, il portinaio del numero 8. Dentro le bravi ladroni corti dal buio, le reo con comizi. Ma comizi. Ma cosa state facendo? Ma siete impazziti! Ma come non rischiamo la pelle di tenere via? State attenti che succede qua vicino a Bologna, bruciano le case, sanno che riguarda il corpo dei partigiani. Travaso? Vieni qui, adesso pure con questo ciaccio. Sì. Chiaro, le robe pericolose. Che benzina, lo so. E adesso dobbiamo distribuirle soprattutto nelle case che ho ornato, perché da lì che sono passate le schede, mi raccomando, insegnare bene la gente come si usano le moto. No, per non dormire nessuno. I bambini le donne, poi si vogliono le donne, i bambini. Le donne di riguarda su e giù, su e giù, su e giù per i cortili, su e giù per i cortili, sembrano gatte in calore. Noi donne difendere il nostro palazzo. È venuto il briosco con le fasce tricolori per la liberazione, bianco, rosso, verde, ma anche portato munizioni, bombe a mano, pistole, fucili. Che loro donne e uomini, quei pochi che sono in casa, ma più le nostre sono messe, e chi porta le sue bottiglie coperte di lana, pure i feriti nel circolo risorgimento. Ma fate barricate, fate barricate! E non dicano che le donne non sanno fare. Le donne hanno fatto molto e sapevano considerare un po' di più di quello che le hanno considerate fino adesso. Adesso basta, fare le barricate, fare le barricate, via! Sono tornata qui a Niguarda e qui abbiamo fatto l'accampamento con tutti sti ragazzi. Si cerca di vestirli, di dargli da mangiare, di fargli coraggio man mano che vengono giù dalla montagna, stracciati, conciati, senza scarpe, i pantaloni con fuori il sedere che fanno stringere il cuore ai ragazzi con la barba lunga. Portano dentro i feriti. Io prendo i nomi, dottor Vertuglia, dottor Santini, sono venuti dall'ospedale. Una signora, Mina, dona il sangue, è qui. In questo piccolo circolo abbiamo fatto l'accampamento con tutti i feriti. Io sto lì con le compagne di Niguarda, organizziamo anche la mensa, poi andiamo a fare il giro delle fabbriche, andiamo alla Breda, alla Pirelli, alla Breda, un compagno ha fatto anche un comizio, insomma, tutto il giorno così. Quando la sera io sto tornando a casa con la mia bicicletta. Io sto pedalando la mia bicicletta e per un po' la bicicletta va, se non che all'improvviso davanti all'ospedale, proprio lì in via Cagrande, di fronte all'ospedale, all'improvviso la bicicletta va, ma perché non funziona più? Cosa c'è che non va? Le ruote, i freni, i pedali? No. Le gambe. Sono le mie gambe che non funzionano più. Allora freno, scendo. E a mano faccio tutta la strada, perché anche lì l'indignazione, la rabbia, il tormento, chiamalo come vuoi, il dolore mi si concentra in un brivido che mi percorre la schiena, e anche lì cosa liberatoria, e non può che essere così, non è giusto. Non è giusto perché non io? Io una ragazza senza impegni, senza legami, e lei aveva il suo bambino. Ecco. Non è giusto. Non è giusto. Mia mamma fa la portiera via Graziano 34, però resta lì la bicicletta una settimana in casa della mia mamma. La bicicletta è una scarpa di lei, della Gina Bianchi. Allora, la bicicletta a chi? Tegnela lì, che quando in prima o poi venirà a Tola. E quando è venuta a Tola, che l'ha data la bicicletta. E la scarpa e ciao.